Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Mattino. Le 8, 18 minuti e 49 secondi, questa è la terza parte di 24 mattino, care ascoltatrici, cari ascoltatori, a venerdì 9 ottobre, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Tra poco parleremo col presidente della regione Emilia Romagna e presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini. Ovviamente parleremo di Covid, parleremo anche di queste tensioni che ci sono tra il governo centrale e le regioni, che, come vi ho rappresentato poco fa nel corso della rassegna stampa, non riguardano solamente l'Italia, come il caso di Madrid dimostra. E poi sarà il nostro ospite Antonella Viola, immunologa, per fare proprio un punto più scientifico sulla pandemia alla vigilia del fine settimana. È il momento del nostro appuntamento con Paolo Mieli, però, caro Paolo, buongiorno, buongiorno. Buongiorno e me la rido oggi. Eh sì, guarda, allora, il virus... Dillo tu, va. Il virus linguistico, in questo caso linguistico, si è diffuso. Ti faccio sentire il ministro Gualtieri ieri sera forse a Porta a Porta. Vabbè, sentiamolo. Porta a Porta, sì. Sentiamolo, va. Se l'accordo transattivo che si è delineato non venisse raggiunto per responsabilità del concessionario, naturalmente non si potrebbe interrompere il processo di caducazione che è stato temporaneamente sospeso proprio in virtù delle proposte del concessionario che ha prospettato un accordo transattivo. Qualunque sia la penale, diciamo. La caducazione, oggi è la vigilia della caducazione, cioè, ormai ovunque. Guarda, hai perso sulla tua scommessa, perché hai dato retta al governo, era l'ennesimo annuncio, altri 10 giorni, prima erano 3 giorni, sono 3 mesi che vanno avanti con questa storia di minacciare la revoca ai Benetton, e noi ci scherziamo, e anche questo perché adesso 10 giorni fa appunto abbiamo detto che sarebbe stata una balla anche questa volta. Solo che hai ragione, lo dicono con un linguaggio troppo complicato, perché per dire, guarda, è un ultimatum a vuoto come i precedenti, si può dire in modo gentile verso se stesse, ma dirlo in maniera così complicata. E poi io vorrei sollevare una questione: quando uno annuncia, un presidente del Consiglio, una revoca di qui a 3 giorni o di qui a 10 giorni, provoca dei movimenti in borsa, obiettivamente, no? Perché non sarebbe meglio svolgere queste trattative, che richiedono tutto il tempo che chiedono, lunghissima, senza fare annunci e ultimatum? Gli ultimatum lasciali fare ad altri, ma non membri del governo, ministri dell'economia. Perché? Perché ogni volta su un ultimatum si provocano, soprattutto fatti a borse aperte. Poi, come abbiamo osservato, i termini dell'ultimatum scadono di sabato e domenica, così le borse sono chiuse e nessuno se ne accorge di questi termini andati a vuoto. Quindi il prossimo ultimatum, invece di scherzarci come abbiamo fatto sulla caducazione, così protesteremo da questa radio. Sì. Insomma, si chiama ultimatum, che sia un ultimatum. Terzo ultimatum, quarto ultimatum. Anche basta. Paolo, visto che siamo sui temi economici, hai visto che si sono un po' incartati al Parlamento europeo sul tema del recovery fund? Come no, l'ho visto, si sono seriamente incartati, si è interrotta la trattativa. La Merkel si è arrabbiata perché il piano messo in discussione era il suo. Nel frattempo, quindi, i soldi del Recovery Fund arriveranno quando arriveranno, ma non è così liscia la trattativa al Parlamento europeo. Nel frattempo, ieri Gualtieri, in quella intervista che hai fatto sentire, ha detto che no, che per il MES c'è tempo, lasciando intendere, questo lo scrivono tutti i giornali chiaramente, che il PD, avendo ottenuto dal Movimento 5 Stelle la caducazione dei decreti Salvini, non può chiedere anche adesso il MES. Ma ti pare un modo di ragionare? Siamo tutti dicono che c'è un'emergenza sanitaria su, intorno alla nuova, al nuovo riaffacciarsi, e vogliamo usare una parola gentile, del Covid, e insomma queste contrattazioni sono un po'... Sì, vergognarsi, sì, però giubilato Di Maio era contentissimo, ieri è andato in giro in tutte le televisioni a dire: vedete, lo ha detto anche Gualtieri, che quella del MES è una stupidaggine, non è una questione. Però senti, visto che parliamo di Covid, io devo dire anche sì, che ci sono delle cose serie. Sì. Primo, che in Cina hanno annunciato che il turismo ha ripreso a livelli pre-Covid, l'economia cinese a questo punto sta galoppando, e che anche la Nuova Zelanda ha annunciato che è stata sconfitta la seconda ondata e che adesso il paese è libero da Covid. Certo, può riaffacciarsi una terza, quarta volta, sì. Però io per orientarmi su, come hai fatto tu del resto citando la questione spagnola, vedrei quello che si fa all'estero, nel senso, guarderei di più come avrebbero fatto bene i paesi europei a guardare a cosa succedeva in Italia all'inizio, così anche noi sarebbe bene che ci portassimo avanti. Per esempio, a me sembra chiaro che se gli indici continuano a essere qualche forma di severità nei confronti dei locali notturni, bar e ristoranti, non significa chiuderli, sì, ma significa, insomma, come si è fatto per esempio, come si è fatto per esempio a Latina, dove si obbliga a stare non più di quattro, esatto, persone per tavolo, chiusura a mezzanotte. Sì. A proposito, Paolo, non so se hai notato, ne racconta per esempio il Corriere della Sera, in questo pezzo di Paolo Virtuani, sul tema delle chiusure. C'è un appello di una serie di scienziati che dicono: guardate, il lockdown generalizzato non è la misura giusta. Aspetta, questo appello è importantissimo. Prima cosa, l'hanno firmato in 137.000. E poi perché loro dicono: guardate, noi non è che stiamo come Sgarbi, Pappalardo, Montesano, non è che siamo negazionisti. Noi crediamo nel Covid più di voi, solo pensiamo che è molto meglio studiare dei progetti di protezione degli anziani, e vanno studiati e si possono studiare, piuttosto che chiudere così a vanvera, che questo non ci porta a niente, porterà a crisi. Secondo me questo bollare questi scienziati come negazionisti è un errore, bisogna ammettere che anche in questo dibattito esiste una terza posizione. Bravi gli scienziati. Sì, sì. Ti porterei a questo punto sulle vicende vaticane che tanto ci appassionano, perché ieri poi Becciu, il cardinale Becciu, non danno, bravo, hai colto il punto, non danno importanza al fatto che c'è stato un incontro segreto fra il Papa e il Cardinale Becciu, dove sembra essere venuta al pettine un'altra questione spinosa, di cui credo parlerà l'Espresso domenica prossima, e che una dei capi di imputazione che si fanno a Becciu è di aver applicato il metodo del credit default swap, cioè di scommettere sul crack di società. Questo la Santa Sede lo proibisce, uno può fare quello che vuole in borsa se è un economista, un tecnico economico del Vaticano, ma non scommettere sulla crisi, che è una delle cose, come sai, sì, più praticate. E comunque, insomma, sarà un argomento interessante anche da seguire economicamente. Nel frattempo, di segnare il cardinale emerito di Hong Kong Joseph Tsen si è messo a polemizzare violentissimamente contro Parolin, dicendo che a proposito dei rapporti con la Cina Parolin mente, anzi ha messo in dubbio pure che Parolin abbia fede. Dice: secondo me non ha fede, perché quando dice che Ratzinger anche era d'accordo con quello che è stato l'operato poi di Papa Francesco, dice bugie. Interessante questione. Sì. A proposito di paria, perché un po' il cardinale Becciu lo sta diventando, sicuramente il cardinale di Hong Kong lo è, sicuramente lo sta diventando Luca Palamara, perché oggi si decide sulla sua uscita dalla magistratura, e curiosamente tutti quelli che sono coinvolti nelle chat, nei giochi di potere, le persone che erano a cena con lui nel famoso incontro con Lotti, eccetera eccetera, e tutte queste persone sono intoccate, diciamo così, dalla vicenda. Sì. Punto primo, le sentenze annunciate non si dovrebbero fare i processi dove è scontata la sentenza. Non si ascoltano i propositi, i testimoni dell'imputato e alla fine in fretta, perché poi il procedimento, la storia dura da un anno e mezzo, ma il procedimento è stato fatto in 448, viene buttato fuori da solo e hai perfettamente ragione. Tutti gli altri, è come dire, gli altri vedremo, non è che non saranno indagati, però per gli altri c'è tempo. E tanto si annuncia uno dei suoi giudici, di quelli che lo butteranno fuori, sarà Piercamillo Davigo, che come sappiamo deve andare in pensione il 20 ottobre, perché compie 70 anni, e già ci sono sui giornali tutte indiscrezioni, perché lui vuole sì andare in pensione, accetta di andare in pensione, tra l'altro chiede un sacco di soldi arretrati, ma vuole rimanere giudice nel CSM. E alcuni dicono che non è lecito, lui sostiene il fatto, gli dà molto spazio agli argomenti per cui invece si può andare in pensione da giudice ma rimanere nel CSM. Sarà una questione, la vediamo mercoledì, pare che ci sia, sì, la sentenza. Vedremo. Nobel, l'hai visto? Sì, ho visto, non la conoscevo, sono sincero. Guarda, voglio essere sincero come te, non la conoscevo neanch'io, ma secondo me non la conosceva nessuno. Louis Gluck, i giornali fanno un grande dibattito, ma è uguale a Emily Dickinson, assomiglia a Emily Dickinson? No, non assomiglia a Emily Dickinson, oppure è più grande di Emily Dickinson. La verità è che io ieri sono andato in libreria subito a cercare i suoi libri, che si chiamano L'Iris Selvatico e Averno, e ho scoperto che non esistono in Italia perché le hanno stampate due piccoli editori, Giano di Varese, Dante, che Giano della città Varese, Dante Descartes di Napoli, e ne hanno stampato mille copie di un libro. Quindi la coda buffa che c'è oggi sui giornali è un grande dibattito da parte di persone, tranne gli anglisti, coloro che sicuramente sono raffinati, ma io dubito che gli estensori degli articoli dei giornali conoscessero Louis Gluck, sì, prima, sì, me compreso e te compreso. Oggi c'è il Nobel per la pace. Ecco, vedi. E secondo te, dai, fammi una previsione. Guarda, la previsione non la so, perché questi sorprendono, questi del Nobel danno dei Nobel strampalati. Però oggi è il giorno di Greta. Se lo danno a Greta, è la consacrazione di questo 2020 di Greta, offuscato, diciamoci la verità, dal coronavirus, ma Greta Thunberg ovviamente, certo. Ma se non lo danno a Greta è un modo di accantonarla definitivamente, di lei forse si parlerà meno, non dico che non si parlerà più, ma le denunce, le cose su cui all'inizio dell'anno tanto ci siamo appassionati, il suo viaggio, sì, in barca negli Stati Uniti e tutti che la volevano incontrare, abbracciare, vedevamo i potenti della terra con gli occhi chini davanti a Greta, merita il Nobel. Basta. Caro Paolo, ci sentiamo lunedì mattina, senza caducazione naturalmente, senza caducazione. Addio caducazione. Ciao Paolo. Insieme alle molte cose che sono migliorate dalla prima ondata della pandemia, un filo di cappa si sente ancora, e non è tanto e non solo dovuta al numero dei contagi, ieri 4.500 come ormai sapete, 22 vittime, la Campania che sta soffrendo particolarmente, i posti letto negli ospedali che vengono progressivamente sempre di più occupati da malati di Covid, non necessariamente in terapia intensiva, anche in terapia intensiva ma non necessariamente in quella, perché come è stato sottolineato ieri per esempio da Walter Ricciardi, il problema è più negli altri letti, non in quelli in terapia intensiva, perché ormai sapendo trattare abbastanza bene questo virus, sapendo identificare, poi il problema è avere i posti negli ospedali. Una cappa che si compone anche di una nuova tensione, almeno apparente, tra il governo e le regioni, che avevamo già visto nel periodo più acuto della pandemia. Anche di questo, ma non solo di questo, parliamo con Stefano Bonaccini, che è presidente della regione Emilia-Romagna, presidente della conferenza delle regioni. Bonaccini, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno a voi, buongiorno. Vede il rischio di uno scontro col governo o no? No, no. Se saremo tutti responsabili e faremo come abbiamo fatto nella prima fase, quella più drammatica, che ovviamente dobbiamo fare di tutto perché non ritorni con quelle dimensioni, non vedo questi rischi. Non si può, come dire, far sempre il titolo su un'intervista o un'altra, però vede, quando le centinaia di ordinanze che le regioni, 20 regioni diverse, 2 province autonome, un paese molto differente tra sé, hanno fatto e abbiamo fatto, nel 98% dei casi sono risultate conformi alle decine di decreti che il governo ha emanato, già questo testimonia la bontà del lavoro comune che abbiamo fatto, perché un conto sono le parole, un altro i fatti. E se l'Italia, da primo paese occidentale travolto dalla pandemia dopo la Cina, non avevamo esempi a cui attingere in quelle settimane, in quei mesi, oggi è uno dei paesi, pur con tutte le preoccupazioni che abbiamo, però tra i più sicuri al mondo, significa che ha funzionato un rapporto tra lo Stato centrale e i territori, altrimenti non si spiegherebbe perché sia accaduto questo. Adesso bisogna, come abbiamo chiesto e il governo ha detto di sì, e ringrazio il Presidente del Consiglio, i ministri Boccia e Speranza in particolare, riattiveremo la cabina di regia pressoché quotidiana, perché questo aumento dei contagi fa sì che dobbiamo insieme attivare tutte le misure di prevenzione possibili. Dice il succitato Walter Ricciardi che le regioni, o almeno alcune regioni, hanno dormito in questo periodo, cioè avrebbero potuto attrezzarsi meglio. Sì, Ricciardi non ha competenze istituzionali e penso che qualche parola sia stata utilizzata fuori luogo. Guardi, ieri le parole del Presidente del Consiglio, del Ministro della Salute e quello degli affari regionali, che sono quelli con i quali più abbiamo lavorato per tanto tempo, mattina, giorno, sera e persino notte, tutti i giorni, ieri hanno fatto chiarezza, hanno detto che il ruolo delle regioni è stato indispensabile. Guardi, è proprio così, è. Il motivo per cui in questo paese, ripeto, il primo... Mi scusi Bonaccini, che il ruolo sia delle regioni sia indispensabile non c'è dubbio, che su questo sulla dichiarazione siamo d'accordo, sul fatto che alcune abbiano lavorato bene e altre peggio, questo è un altro discorso però. Ma quello può attenere all'opinione generale, potete voi guardare i numeri, dare i giudizi, ma che complessivamente, perché altrimenti la domanda verrebbe rivolta a voi. Come vi spiegate che l'Italia, che era travolta, oggi è uno dei paesi che ha numeri inferiori a praticamente quasi tutti i paesi occidentali? Come ve lo spiegate? Io me lo spiego molto facilmente, in un rapporto costante che quando anche ha vissuto tensioni, ci mancherebbe, le abbiamo viste, ha sempre trovato un'unitarietà di misure che sono state riportate in territorio. Poi sa cosa c'è? C'è anche un paese che ha una sanità pubblica differente tra sé, perché nel tempo non tutte le sanità pubbliche di ogni regione hanno avuto la stessa forza dal punto di vista di come sono, tra virgolette, organizzate. Ci sono ritardi nel paese da colmare, lo sappiamo, è lo sforzo che dobbiamo tutti insieme vincere. D'altra parte, vede, il tema del pubblico e dello Stato era passato di moda. Sì. In questi anni hanno vinto altre parole nelle democrazie. Lei ricorderà la mia campagna elettorale, la parte dello scontro che mi ha visto alla fine prevalere era anche basato su chi difendeva come me la centralità della sanità pubblica e chi proponeva invece legittimamente, ma io ovviamente ero contrario, a privatizzarne una buona parte. Insomma, quindi dobbiamo colmare differenze, ma certamente il lavoro, al di là di chiaroscuri come lei indica, che ognuno, ripeto, legittimamente può indicare, giudicare o meno, mi pare un lavoro che abbia pagato e deve continuare a pagare. Non vedo altra strada che il lavoro insieme, per questo abbiamo chiesto la cabina di regia e io credo che le regioni comunque siano state molto responsabili in questi mesi. Non ci vuole una maggiore centralizzazione della sanità, cioè un ritorno al passato, Bonaccini, secondo lei, per rendere tutto più omogeneo? Cioè, quando vediamo le immagini delle persone che fanno 13 ore di fila per il tampone al drive-thru nel Lazio, in Campania, e i 6 minuti che ci mettono a prenotare in Lombardia, uno dice, forse sarebbe il caso di omogeneizzare, di standardizzare questo tipo di prestazioni. Sì, però sulla Lombardia dicevate altre cose qualche mese fa, no? Ribaltandole. Questo è un paese che ha, ripeto, una sanità pubblica che va irrobustita. È il motivo per cui, mi permetta, non so quando, se non ora, quando dovremmo utilizzare i 36 miliardi di euro del MES. Potrebbero essere messi a disposizione subito, dal mio punto di vista. Ha visto che Gualtieri ha rallentato ieri, ha rallentato un po' il ministro Gualtieri ieri su questo. Ha detto, beh, tutto sommato. Io non so cosa rallenti o non rallenti il ministro Gualtieri. Io so cosa farebbe Bonaccini. Bonaccini pensa, lo dico da settimane, ma è la stessa cosa che ha detto il segretario del mio partito, Nicola Zingaretti, che il MES sarebbe uno strumento che, investendo le risorse con un'unica condizionalità, quella di spesa per la sanità pubblica, permetterebbe sugli ospedali, ma non solo, in particolare sulla medicina territoriale, quella domiciliare, che abbiamo visto quanto può pagare se la aumentiamo, cioè se curiamo anche a casa e a domicilio le persone, le categorie più fragili, penso ai pensionati o alle persone disabili, quanto può pagare. Dopodiché, ripeto, questo è un paese che ha una sanità pubblica che non è tutta omogenea e per questo bisognerà investirci di più e sempre di più. E con un controllo della spesa attento. E con un controllo della spesa attento, Bonaccini. Ah beh, ma questo guarda, l'ho sempre sostenuto, perché quando chiedi un euro in più allo Stato, lo dico da Presidente di Regione, devi un minuto dopo essere in grado di rendicontare come li hai spesi. Mi permetta di dire però una cosa, è evidente che ci vuole una centralizzazione negli indirizzi, nella programmazione, nelle politiche e diciamo anche in quella che è peraltro il Fondo Sanitario Nazionale dal punto di vista delle risorse, si chiama nazionale giustamente, però vede, se lei viene in Emilia Romagna e vuole spiegare agli emiliano romagnoli che la gestione della sanità pubblica deve essere gestita da Roma, lei non troverà l'opposizione di Stefano Bonaccini, troverà l'opposizione degli emiliani e i romagnoli, che difendono il fatto che la loro sanità pubblica, che io credo sia, grazie ai professionisti, non a me, una sanità pubblica di grande qualità, sia gestita a livello territoriale. Bonaccini, tra le tante cose che riguardano anche voi c'è la questione dei mezzi pubblici che stanno entrando un po' nel mirino nuovamente, questa storia della capienza all'80%. Il Ministero dei Trasporti ha chiesto al Comitato Tecnico Scientifico, il Comitato Tecnico Scientifico ha detto che al momento non è necessario ridurre la capienza massima, certo che anche solo le foto, se vuole, andiamo, so che può sembrare aneddotica, però poi non lo è perché ci troviamo tutti, no, negli autobus. Certo. E nelle metropolitane piene, fa un po' impressione, dà l'idea che in particolare se poi le aziende tornano negli uffici, finisce la fase di smart working più intenso, che possano essere un vettore importante. Secondo lei andrebbe ridotta la capienza nuovamente? Guardi, io penso che se il contagio aumenterà e troveremo delle situazioni, come dire, molto più preoccupanti, si dovrà essere pronti anche ad eventuali ulteriori restrizioni. Tutto dipende dai comportamenti che ognuno di noi adotta e dipende anche dai controlli che mettiamo in piedi. Noi ho scritto una lettera alla ministra Lamorgese, che ringrazio peraltro per la continua collaborazione, proprio per chiedere come presidenti di regione che nei territori l'attivazione dei controlli anche da parte delle forze dell'ordine sia garantita, perché come lei può immaginare è evidente che una misura o misure tante che prendiamo proprio per l'omogeneità che lei giustamente rivendicava devono avere anche una forma di controllo per evitare di interrompere tutto. Vede, il tema del trasporto pubblico è tornato attualità perché abbiamo deciso, secondo me in maniera sacrosanta, di riaprire le scuole in questo paese, perché da troppi mesi i nostri figli, i nostri studenti erano rimasti, come dire, a casa, e la scuola è anche socialità, non è solo insegnamento. Quindi bisogna fare le cose per bene, bisogna essere pronti anche a qualche restrizione nel caso sia necessaria, ma certamente la cosa migliore è quella di chiedere alle persone comportamenti adeguati, non scherzarci su. Siamo ancora in piena fase di contrasto e di lotta contro questa pandemia, seppur, come avete detto anche voi, la si è imparata, l'ha detto anche Ricciardi, a contrastare meglio. Lei sì. Pensi che la mia regione, fino a poche settimane fa, ha avuto oltre 500 ricoverati contemporaneamente in terapia intensiva, oggi siamo a 13. Quindi, insomma, dentro a questo quadro, che è migliorato, però dobbiamo stare attenti a non tornare indietro, perché un nuovo lockdown generalizzato sappiamo che il paese non se lo può permettere. Sì, quindi bisogna fare interventi, se possibile mirati se servono, ma dentro un quadro di strategia in cui poi i controlli devono funzionare. Se si tornasse alla chiusura dei confini regionali, e questa è l'ultima domanda, poi la lascio, se si tornasse sì. all'idea di una chiusura di confini regionali, e pensiamo evidentemente alla Campania in questo momento, con qualcuno ci legge, non so quanto correttamente, una sorta di nemesi nei confronti del presidente della regione De Luca, che voleva chiudere le regioni del nord nel periodo più acuto della sì. pandemia, vi opporreste, sareste d'accordo? Guardi, coi se e coi ma si riempiono le trasmissioni televisive, radiofoniche, i giornali, ma non si risolvono i problemi. Quindi, di fronte a eventuali ricadute o meno, discuteremo insieme come abbiamo sempre fatto. Grazie Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e appunto presidente della Conferenza delle Regioni. Andiamo sul lato più scientifico adesso, finora abbiamo toccato quello politico e di gestione sanitaria anche, perché non è solamente quello politico, e siamo con Antonella Viola, che è immunologa, professoressa di patologia alla Facoltà di Medicina dell'Università di Padova. Professoressa Viola, buongiorno, benvenuta ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno a tutti. Quanto dobbiamo essere preoccupati? Allora, preoccuparsi per star male e soffrire non serve a niente, preoccuparsi per stare attenti invece sì, è importante, quindi se mi chiede se dobbiamo fare attenzione, sì, ne dobbiamo fare tanta, perché i numeri non sono buoni, nel senso che come tutti vediamo stanno salendo le terapie intensive, che è il numero più affidabile, no, che abbiamo per tenere sotto controllo l'andamento e anche professoressa, quello dei ricoveri da Covid ordinari, cioè quelli che non vanno in terapia intensiva, no? Certo, anche là certamente, perché mentre appunto il numero dei positivi può dipendere dal numero di tamponi fatti, da quanto riusciamo a identificare effettivamente le persone, ne possono sfuggire, sappiamo che durante la prima ondata come minimo ne abbiamo persi 6, no? Di positivi, ogni positivo individuato, l'abbiamo saputo col test sierologico dopo, quindi probabilmente anche oggi ne stiamo perdendo. Ecco, tutti questi numeri variano, mentre invece quelli sono abbastanza affidabili e quindi ci possono far capire come stanno andando le cose. E le cose stanno andando in una direzione per cui se noi non interveniamo adesso con delle misure che tendano a bloccare la curva, la salita della curva, arriveremo alla fine dell'anno con dei numeri importanti. Dal suo punto di vista, quali dovrebbero essere le misure, posto che ovviamente la decisione sta alla politica? Noi diciamo sempre, noi lo chiediamo agli scienziati, certo, cosa certo. pensano, poi la decisione sta alla politica, che deve mediare tra le due questioni, no? La diffusione della pandemia da una parte e dall'altra parte le esigenze economiche e di vita delle persone. Però prego, no, professoressa, però, cosa insomma, pensa? Anche noi scienziati ci rendiamo conto benissimo che le esigenze economiche sono importanti e senza l'economia che funziona non si paga gli stipendi neanche dei medici, quindi insomma dobbiamo proteggerla. Però quello che sicuramente io vedo come criticità in questo momento sono i trasporti, e questa era una cosa che si sapeva benissimo che con la ripresa della scuola ci sarebbero stati problemi con i trasporti, quindi bisognerebbe intervenire sul trasporto pubblico potenziandolo. Probabilmente bisognerebbe fare qualche controllo in più, perché ci sono, è vero, dei ristoratori, degli esercenti che sono molto ligi e attenti, molti altri che non lo sono, quindi maggiori controlli per le strade, nei luoghi di aggregazione, degli aperitivi, della movida. E io probabilmente limiterei per esempio le tavolate. Una volta non si poteva andare al tavolo in tante persone, adesso io vedo tavolate di 15 persone nei ristoranti. Magari mettere un limite di tavoli da 6 potrebbe già garantire, perché sappiamo che questa e sono i cluster che noi dobbiamo evitare, no? Cioè queste grandi aggregazioni dove ci può essere l'evento di superdiffusione, quindi le feste, i luoghi in cui ci si trova in tanti senza mascherina perché si chiacchiera, si mangia, si parla. Queste sono le situazioni che dobbiamo in questo momento evitare. E poi dobbiamo assolutamente implementare la diagnosi. Le immagini che stiamo vedendo delle code per i tamponi, così, è una situazione inaccettabile, quindi dobbiamo usare i test rapidi da subito, ci sono e vanno utilizzati, e dobbiamo eliminare la regola dei tamponi per uscire dall'isolamento dopo la positività, perché questo non solo libera le persone, ci sono persone che sono chiuse in casa da mesi in attesa che il tampone diventi negativo, ma anche alleggerisce il sistema diagnostico. Sì. Cioè, non ho capito, quindi queste persone che sono in isolamento da settimane dopo essere risultate... Da mesi, ma dopo essere risultate positive, lei dice dovrebbero uscire senza tampone, non ho capito. Sì, assolutamente, perché dopo 15 giorni la possibilità che una persona che sia stata positiva, che ha fatto il tampone, giusto? Dopo 15 giorni che sia ancora veramente positiva, cioè che sia in grado di produrre virus vivo e non che abbia tracce di RNA, è veramente vicina allo zero. Quindi noi dobbiamo in qualche modo, mi scrivono tantissime persone che sono bloccate in casa, sequestrate in casa da mesi, perché continuano a far tamponi e il tampone continua a risultare positivo. In un caso di questi, perché la mamma di questo ragazzo era veramente angosciata, io ho contattato l'ASL, mi sono fatta mandare tutti i dati. Allora, il tampone è positivo con un ciclo, questa è una cosa un po' tecnica, 39. 39 vuol dire che praticamente lì non c'è virus, ma ci sono tracce di RNA che sono rimaste probabilmente nel naso, perché 39 è praticamente rumore di fondo, è una cosa tecnica, però noi lo sappiamo benissimo. Sì. In questo momento noi stiamo non solo bloccando delle persone in casa appunto per mesi, con l'impatto che questo ha sull'economia, sulla salute mentale anche di queste persone, ma poi continuiamo anche a far tamponi che non servono a niente, perché appunto avere un ragazzo che è stato sempre benissimo, che è chiuso in casa da due mesi e che continuano ad avere un tampone positivo al ciclo 39 è veramente un'assurdità. Sì. Sì, guardi, i nostri ascoltatori sono terribili, c'è già qualcuno che scrive, quindi Ibra può giocare, non lo so, sinceramente non saprei dirlo. I dati dicono appunto questo, dopo 15 giorni solamente meno del 6% delle persone che sono state appunto positive si trova del virus vivo e in quantità così basse che non sono assolutamente contagiose. Okay, questo è un punto interessante. Ha visto, professoressa, di questo appello firmato da 147.000 persone per dire il lockdown generalizzato non è detto che sia e che sia stata la scelta giusta? Rapidamente, cosa ne pensa? Allora, il lockdown generalizzato, dipende da cosa intendiamo, in tutto il paese può darsi, perché c'erano delle aree del paese dove il virus circolava quasi per niente, no? Sì. Ce lo ricordiamo. Sì, esattamente, questo è vero e sicuramente infatti non si tornerà a una situazione di questo genere, saranno possibili dei lockdown chirurgici molto selezionati, ma certamente non dei lockdown come quello, perché è vero che ci sono delle regioni in cui, è vero che anche però queste regioni sono state protette in questo modo, no? Ricordiamoci che tante regioni del sud hanno beneficiato di questo lockdown, tra virgolette, dal punto di vista sanitario. Quindi col senno di poi è difficile fare. Lo sappiamo perfettamente. Io la ringrazio intanto, professoressa Viola, per essere stata con noi e averci aiutato a fare un punto oggi. Antonella Viola, immunologa, professoressa di patologia alla Facoltà di Medicina dell'Università di Padova. Carmelo Lauricelli regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, il resto della squadra, Gloria Guerrera, Giorgio De Luca, i nostri autori Margherita Eni e Francesco Ciaraffo. Noi ci risentiamo lunedì mattina alle 6:30 da Simone Spezia. Un buon fine settimana. Ciao. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Su Aruba.it.